Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Negli ultimi anni è aumentato decisamente il numero degli occupati di domenica, sia tra i dipendenti che tra i lavoratori autonomi. Nel settore commerciale, grazie alla liberalizzazione degli orari introdotta dal governo Monti, una risposta alla crisi è stata quella di aumentare i giorni di apertura dei negozi, con la grande distribuzione e gli outlet che durante tutto l'anno faticano a chiudere solo il giorno di Natale e quello di Pasqua. Anche le piccolissime attività, nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare, sono state costrette a tenere aperto anche nei giorni festivi per non perdere una parte di clientela. È quanto emerge anche da un'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre, per la quale saranno 4,7 milioni gli italiani che lavoreranno di domenica. Il settore dove la presenza al lavoro è più elevata sarà quello degli alberghi ristoranti, seguono il commercio, la pubblica amministrazione, la sanità e i trasporti. Tranquillizzo tutti, dato che l'argomento del giorno era proprio il lavoro della domenica. Qualcuno potrebbe pensare che io magari il martedì non lavorassi perché lavoro la domenica. No, era un piccolo problema di collegamento tra lo studio di Roma e lo studio di Milano che abbiamo presto risolto, quindi la mia assenza nell'etere era data soltanto da una linea che si era un po' inceppata. L'argomento mi sembra chiaro, la scheda iniziale ve l'ho spiegato, è l'argomento che oggi riempie le pagine abbastanza neghittose post Pasquetta sui giornali. Neghittose perché? Perché tutti hanno fatto Pasqua e Pasquetta, quindi riprendere un ingranaggio un po' lento, ma non per tutti, per quelli che hanno lavorato, come i dipendenti, la maggior parte dei dipendenti dell'outlet di Serravalle, che era diventato un caso nazionale. Qualcuno aveva protestato, aveva detto non lavoreremo la domenica, non ci piegheremo al lavoro domenicale, poi alla fine hanno aperto quasi tutti, ma c'erano folle comunque di persone che stavano in queste città della lussura dell'acquisto, lì con le famiglie, che per loro la Pasquetta e la Pasqua, andare a fare acquisti, non c'è nulla di male, non bisogna avere sempre un taglio moralistico o pensare che gli altri debbano impegnare il loro tempo, sia il tempo proficuo, il tempo del lavoro, il tempo della fatica, come il tempo del divertimento, del disimpegno, della lussuria, secondo parametri fissi. Quindi questo vale probabilmente anche per il lavoro domenicale. Anche se il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio è dalla parte di coloro che dicono che in realtà il lavoro domenicale sia una sorta di abominio, sia un imbarbarimento, sia un attentato alle famiglie, al benessere. Le famiglie si sfasciano perché bisogna lavorare la domenica. Ora questa mattina, proprio per non generalizzare o perlomeno per non conformare sulla propria personale equazione esistenziale, cioè su quello che uno fa, questo giudizio, mi sono consultato con alcuni colleghi, la maggior parte mi diceva bisogna vedere bene, è chiaro che per noi facciamo i giornalisti, scriviamo, facciamo dei lavori che ci piace fare, non chiediamo altro che avere comunque occasioni per fare quello che facciamo, è vero, io la maggior parte delle giornate festive, voi direte sei perverso, Pasqua, Pasquetta, Natale, Santo Stefano, domenica, sabato, se potessi farei quello che faccio tutto il giorno, sto davanti a un computer, penso, scrivo, immagino oppure parlo, questo mi piacerebbe fare, ma mi reputo un fortunato, una persona che fa un lavoro che dà grande soddisfazione, dà grande gratificazione. Faceva riflettere un collega, dice sì, ma pensa a chi fa un lavoro monotono, ripetitivo, faticoso, sta una catena di montaggio, fa un lavoro che comunque per lui è solamente un'occasione per guadagnarsi da vivere, non c'è nessun tipo di gratificazione. È chiaro che gli togli una parte della socialità, la domenica ci sono i figli a casa, ci sono le famiglie, gli amici escono tutti la domenica, le occasioni di uscita da il meccanismo stritolante del lavoro è semplicemente il fine settimana, quando si può fare qualcosa. In realtà durante la settimana tutti si lavorano, i figli vanno a scuola. E questo diciamo, rende ancora più difficile un giudizio generale. D'altronde è anche giusto che ci sia un principio di libertà, che ognuno possa scegliere, ma tutti possono scegliere. Quando il tuo datore di lavoro ti impone di lavorare la domenica, è una tua scelta, puoi dirglielo la domenica non lavoro, sì, puoi dirglielo in alcune circostanze, se hai figli sotto i 3 anni, se hai un congiunto con handicap che devi gestire te, ma gli altri casi devi starci. Voi come la pensate? Al di là, diciamo, dalle posizioni dei sindacati, dalle posizioni dei lavoratori, dalle posizioni delle parti politiche che sono espresse su questo. Lavorate la domenica, lavorate volentieri la domenica. Trovate che lavorare la domenica sia comunque un giorno come un altro, oppure esiste qualcosa di sacro, una sacralità. Anche noi abbiamo una conformazione ancora teocratica, per cui la domenica è il giorno sacro, non bisogna lavorare. Oppure la domenica è un giorno come un altro, vi potete organizzare la vostra vita, altrimenti magari non lavorate il venerdì, non lavorate il lunedì, il martedì, il mercoledì. O come direte voi, parli bene tu che fai il lavoro e ti piace farlo, puoi fare in qualunque parte del mondo, basta che c'hai qualcosa per scrivere, qualcosa per leggere, già stai lavorando. No, non è così per tutti. Beh, insomma, lavoratori della domenica, oppure persone che la domenica pensano che il lavoro sia un gioco, un'imposizione, qualcosa che mina alle radici la vostra organizzazione familiare, il vostro rapporto con la società, l'equilibrio della vostra vita. Esprimetevi oggi, perché mi piacerebbe sapere come la pensa la gente su questo tema, su cui si esprimono finora soltanto rappresentanti, ma non persone. 800240024, a tra un istante. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Siamo qui per manifestare contro questa liberalizzazione, ovviamente ci sta obbligando a lavorare tutte le domeniche e togliendo tempo alle famiglie e ai nostri cari. I lavoratori del commercio hanno visto praticamente devastare le proprie vite, la propria socialità, in quanto non esistono più giorni di riposo, giorni che si possano dedicare alla famiglia. Non è una battaglia ideologica, recitano in coro diversi parroci della diocesi, ma essenzialmente antropologica, cioè legata a quei valori e stili di vita che permettono il fiorire della vita buona dell'uomo con la sua famiglia. Vogliamo quindi riaffermare la nostra solidarietà a tutti i lavoratori. Oddio, che parlino anche i preti sulla domenica lavorativa, quando ho visto la notizia che ha circolato, ma come facezia. Un prete addirittura il giorno di Pasqua ha messo un cartello sulla sua chiesa. La chiesa oggi è chiusa per mancanza di fedeli. Se qualcuno vuole la messa mi chiami a casa, gliela faccio per lui. Ecco, non credo che sia giusto pensare che ci sia una ritualità da calendario liturgico per cui non si lavori la domenica. Io penso che uno può anche svolgere tranquillamente le proprie pratiche di culto e lavorare. Ci sono messe anche la mattina presto o la sera tardi, quindi se uno volesse la messa si può fare comunque. Il giorno può essere ricordato comunque. Leggo qualche messaggio per farvi capire come anche l'analfabetismo funzionale abbia la sua ragione d'esistere, di essere rappresentato. Mi scrive chi: la domenica è sacra, c'è la Sampdoria. Sì, per molti è una domenica legata allo sport, quindi quando mai si può lavorare. Qualcun altro mi scrive: mettiamo clandestini, negri, politici, ladri che li hanno fatti venire da noi a lavorare 7 giorni su 7, quindi una sorta di tratta schiavistica di imperio, a politici, ladri che li hanno fatti venire, clandestini e negri, a lavorare 7 giorni su 7, e gli altri stanno a guardare. Poi il più divertente di tutti: Nicoletti, sei un crumiro, non hai le palle di dire che sei a favore dello sciopero perché sei al soldo di Confindustria. Ma crumiro, non è che sono un dipendente dell'outlet di Serravalle, ognuno fa quello che vuole. Trovo un po' ridicolo sinceramente dire non andiamo a lavorare, gli outlet sono aperti proprio perché ci vanno le famiglie la domenica. È la ragione d'esistenza dell'outlet, è la rappresentazione, una sorta di città fantastica, irreale. È un parco a tema in cui la gente va, ci sono le panchine, i giardinetti, i ristoranti etnici di tutti i tipi, i divertimenti per i bambini. È un luogo delle meraviglie dove la merce è l'oggetto della lussuria più esaltato. Non vi piace questo modello? Non piace questo modello? Può essere discusso, ma se viviamo in una società in cui i consumi fanno progredire la società, quello è il luogo in cui le persone, invece che andare a spasso, vengono portate in un posto dove c'è il piacere di consumare. L'acquisto è anche un piacere. Può essere non giusto in senso assoluto, ma entriamo in un campo convinzione quasi teologica, cosa sia meglio o non sia meglio. In questo momento quello è, se no non si chiamerebbe outlet, si chiamerebbe negozio tira giù la saracinesca. Vi faccio un esempio banalissimo: il giorno di Pasqua siamo accorti non c'era acqua a casa, l'acqua del rubinetto, dite quello che volete, è imbevibile, è impossibile berla e mi troverei il carcare nello stomaco. Quindi domenica tutto chiuso, sigillato, i negozi di fruttivendoli del Bangladesh erano tutti aperti. Se andate a comprare l'acqua dai fruttivendoli del Bangladesh, c'era bisogno comunque di qualcosa di aperto. Qualcosa di aperto ormai c'è, c'è l'idea, ti manca qualcosa, c'è una rete di negozi che sono aperti. Quindi comunque sia, qualcuno pensa che la domenica non è un giorno in cui sia necessario per forza osservare il riposo. Vediamo un po' qualche ascoltatore. Ho detto che avrei dato parola al pubblico soprattutto, tanto quello che penso già l'ho detto, e non faccio testo, perché faccio un lavoro che per me è un divertimento, mi piace farlo, è la cosa che più mi piace al mondo, quindi non sento la fatica di lavorare, perché mi piace fare quello che faccio, ma sono un fortunato, uno strafortunato. 800240024, Samuel, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per l'opportunità. Io seguo sempre i tuoi programmi, complimenti. Allora, mi dica lei come la pensa. Non c'è niente da dire, perché lavorare la domenica sì, la domenica no, non fa male a nessuno, perché so che loro non è che i dipendenti lavorano sempre, ogni domenica. È importante lasciare aperto e grosso i distributori, perché lì le famiglie possono anche fare in giro con a fare spese. Poi delle volte c'è qualcuno che lavora fino sabato sera e non ha la possibilità di fare spese, e domenica c'è la possibilità. Io sono cristiano cattolico, che la messa ci sono anche la mattina presto, ci sono anche la sera, sì. Uno che non riesce e può andare dopo e così via. Allora non vedo nessuna polemica di queste cose qui, perché se l'Italia dice che è fondato sul lavoro e poi c'è qualcuno che ne ha la possibilità di lavorare, perché si lamentano? Questa è la mia osservazione. Mi sembra chiaro, dice quello che più o meno sostengo anch'io. Deve esserci libertà, non deve essere un'imposizione, non deve esserci, diciamo, l'obbligo: o lavori la domenica o non lavori. Però in certi rami di lavoro lavorare la domenica può essere importante. Anche tanti negozi sono aperti la domenica, che ci sono molti più turisti. Lei lavora la domenica, Samuel? Ma avevo un negozio di alimentari e macelleria, e domenica non ho mai lavorato. Però io già avevo la possibilità di lavorare domenica, perché il mercato dove gestivo attività, domenica è sempre... Però lei predica bene e bazzica male, lei a domenica non lavora però. Sì, se non lavoro perché sono costretto di non lavorare domenica, perché il mercato è chiuso domenica. Perché lavora al mercato. Se avesse però un esercizio indipendente lavorerebbe la domenica. Sì, perché no? Io ho lavorato, cioè, centro stampa, anni fa, che si lavorava anche il giorno di Natale, perché il giornale deve uscire. Senta, però il discorso che molti fanno, lei immagino sia straniero, sento alla voce, da qual è il suo paese? Sì. Da qual è il suo paese? Da quale paese di provenienza viene lei? Io sono dalla Nigeria. Nigeria, ecco. Il problema, visto che ormai quanti anni sono che sta in Italia? 28 anni fa. Quindi ormai ci conosce in tutte le nostre manifestazioni. In realtà, sì. Solo per capire, il problema è che molti dicono si snatura la famiglia, si distrugge la felicità delle persone. Lei trova che è corretto dire questo? È complicato altrimenti organizzare la famiglia, anche considerando il fatto che qualche volta un genitore può lavorare la domenica? Sì, ma non ha senso. Anche mia moglie, che fa assistenza all'anziana, il giorno di Pasqua si è andata a lavorare, perché quelli là devono essere curati anche. Non è che allora, l'anziano il giorno di Pasqua non ha bisogno di assistenza, è chiaro, qualcuno deve farlo comunque. No, lavora dentro una struttura, allora sono sempre lì, lavorano normale, domenica, Pasqua, Natale, lavorano sempre, quando ti tocca. Cioè, è una cosa scandalosa, perché chi che apre, c'è qualcuno che viene a fare spese, è inutile a girare intorno, perché qui delle volte fanno polemiche. Poi i politici vengono trascinati per le cose che loro non sanno neanche, secondo me. Perché per guadagnare il voto, per 10 persone che protestano e vanno a fare brutte figure. Abbiamo capito, Samuel, chiarissimo, dal suo punto di vista chiarissimo. Sentiamo Michele. Michele, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Sì. Io la ringrazio per avermi concesso la facoltà di esprimere il suo punto di vista. Il suo punto di vista. Le dico con molta franchezza che se le tre religioni monoteiste prevedono che ci sia un giorno di riposo, il venerdì, il sabato per gli ebrei, la domenica per i cristiani, è che nella Bibbia si dica che il Signore lavorò sei giorni e il settimo si riposò, significa che tutto sommato nella natura umana c'è la necessità di avere un giorno per poterlo dedicare al riposo e alle relazioni interpersonali o interfamiliari. Eh sì, però lo sai com'è, la società è un pochino più complessa rispetto a quelle che sono delle visioni basate su stessi. Certamente. E questo però, giorno non è detto sia lo stesso per tutti, siccome noi siamo tanti, non è detto che quel giorno sia tutto il mondo si ferma, visto che il mondo è un po' più complesso, molti vogliono usare la domenica per andare a acquistare, ad esempio, e che gli piace perché è giusto, non hanno altri giorni per farlo. Qualcuno deve vendere quel giorno lì e quindi ci si alterna. Però le voglio fare una domanda. Ritengo che lei la sessantina l'abbia già superata. Sì, l'ho superata, certo, da un pezzo. Quando lei era giovane. Sì. Che non è diciamo. Sì, se andiamo a dunque. Lei ritiene di aver vissuto le sue relazioni con i genitori bene nel giorno di domenica, ovvero sia, a parte questa premessa, lei ritiene che sia necessario un giorno in cui ci siano le relazioni fra figli e genitori in maniera da poter consolidare quella che la famiglia che oggi ha preso una diversa connotazione? Sì, vabbè, detto questo, uno finché c'ha figli 3 anni può anche evitare lavorare la domenica. Certo. Chi lavora domenica non è che lavora tutte le domeniche dell'anno. Se una domenica al mese qualcuno lavora e i figli stanno con l'altro genitore, non credo che diventeranno dei tagliagole proprio per questo. Non mettere sempre davanti. Sì, chiaro, saremmo tutti più felici avere una società in cui si lavorasse meno, si lavorasse tutti, si sta insieme, si vive in delle grandi città in cui si vuole tutti bene. Non è così, il mondo va avanti diversamente. Io trovo che non sia nulla di scandaloso. Chi può, chi vuole, chi ha facoltà, chi ha bisogno, chi ha desiderio, possa lavorare la domenica. Ma riprendiamo Franis. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ho aperto un canale che non avrei mai avuto sfiorare, l'acqua del rubinetto è potabile, un altro. Nicoletti, hai provato a documentarti sui problemi che darebbe il calcare dell'acqua nel rubinetto allo stomaco? Non ce ne sono, a quanto risulta. Lei, da professionista dell'informazione, si è documentato o il suo è un approccio dogmatico? No, mi fa schifo l'acqua del rubinetto, la casa dove sto io è imbevibile, c'è un sapore orrendo, e se prendo le pentole dove metto a bollire l'acqua per fare la pasta asciutta, sono bianche, io quel bianco non lo voglio nello stomaco, faccia bene o male, non me va, sinceramente. Poi fate come volete, sono 35 anni che sto a Roma, bevo sempre acqua minerale. Quando torno, vado in altra città, bevo anche l'acqua del rubinetto. Che devo fare? Nicola, buongiorno. La saluto, Nicoletti. La sto ascoltando. Volevo dire questo. Io penso che il problema di lavorare di domenica non dovrebbe neanche esistere, perché ci sono mille lavori che si svolgono domenica, quindi la nostra società non si terrebbe in piedi, non sarebbe in piedi. E su questo siamo d'accordo. E fino a lì ci siamo. Le pompe di benzina, le autostrade, gli autogrill, come fai? Diciamo che, il problema è questo, secondo il mio punto di vista, che bisognerebbe riuscire nel mondo del lavoro a analizzare un attimino il mondo del lavoro in generale com'è. Perché io, ad esempio, ho lavorato già, io ho 53 anni, 54, sono parecchi anni che lavoro, tanti anni, e purtroppo nella mia esperienza ho dovuto cambiare lavoro, perché dove lavoravo l'ho chiuso e mi sono trovato a lottare perché i diritti non vengono più rispettati. Questo è un altro, però scusa, è un tema importantissimo legato al lavoro della domenica, sul fatto che il lavoro a domenica non sia giustamente retribuito in alcune situazioni. Questo può essere benissimo, anzi sarà sicuramente così, non è proprio il tema di oggi. Diamo per scontato, ammesso e non concesso, che comunque sia un lavoro giustamente retribuito, perché ci saranno su questo comunque le retribuzioni sindacali previste e tutto, ma andiamo al netto della giustizia comunque di retribuzione. Io sto proprio parlando dell'approccio di tipo simbolico, tipo interiore, l'approccio di impedimento sociale o a socializzare. Questo mi interessa, se no era un'altra missione, la faceva Giannino, non la facevo io, è un altro discorso. Oggi voglio capire qual è l'elemento di base, l'impedimento di disgregazione sociale che noi temiamo lavorando la domenica. Questo è il tema. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Io intervengo perché io ho lavorato in H24, quindi lavoravo anche la domenica, un lavoro normale, un lavoro ben retribuito, quindi è soltanto una questione poi di relazione sia con gli altri che con la famiglia. Sì, ma era 7 giorni su 7, H24, sempre. Per quanto tempo è durato questo lavoro? Allora, io per 8 anni ho lavorato in H24 senza lavorare la domenica. Poi per altri 3 anni ho lavorato H24 lavorando anche la domenica. Ma che lavoro faceva? Solo per capire, perché se lei faceva... Un centro elettronico che doveva essere aperto anche la domenica, anche il sabato. Beh, domenica, faceva dei turni, non credo che esistano posti di un lavoratore che lavora 24 ore. C'erano dei turni, a me capitava. Vabbè, ma nemmeno i cinesi clandestini lavorano H24. Ogni tanto vanno a dormire sotto il tavolino, se no... H24 vuol dire che lei lavorava tutti i giorni della settimana senza un giorno di riposo? Mi sono spiegato male allora. Si lavorava H24 a turni, chiaramente a me toccava qualche volta lavorare il sabato e la domenica. Qual era il problema? Qual era il problema? Il problema è la relazione che hai poi in famiglia, certo. Perché notavo la differenza tra chi per esempio aveva la moglie che non lavorava, aveva un certo tipo di approccio a questo tipo di orario. Io che invece ho la moglie che lavora, non la vedo quasi mai, mi rimaneva anche soltanto la domenica per vederla e qualche domenica saltava, due o tre domeniche al mese saltavano, due sicuro, e quindi questo mi metteva in difficoltà per la relazione familiare. Che devo dire, senza contare anche le relazioni che... con gli amici, le relazioni che hai con gli altri. Questo è il rovescio della medaglia. Ci sono dei lavori dove è necessario lavorare anche sabato e domenica e le feste comandate, ma ci sono dei lavori dove non è necessario. Io vedo supermercati aperti la domenica alle 4 di notte, per me quella è un'assurdità. Però se ritengono a parer mio, però poi... l'imprenditore che gestisce il conto economico del supermercato, se tiene aperto, avrà un suo tornaconto. Se no, non credo lo tenga aperto. I dipendenti li paga. Se i dipendenti li paga, la corrente elettrica la paga, sarà un esercizio inattivo, se non sarebbe aperto la notte. Chiudono gli esercizi che non funzionano, per quel poco che so io. Sull'aspetto familiare, sì, io non posso dire nulla, non so, vi dico, per 30 anni, 20 anni della mia vita ho avuto una moglie che lavorava i sabati e le domeniche quasi sempre, tutte le settimane. Qual è il problema? Ci si vede durante la settimana, cioè non è poi vedersi sempre sia un obbligo, non lo so. Io penso che fermarsi dietro questi schemi tradizionali, domenica bisogna vedersi, ci si vede durante la settimana, il tempo si trova per vedersi se non lo vuol trovare, e poi è la qualità di quando ci si vede, vedersi per stare muti e guardare uno da una parte o dall'altra, non so cosa serva. Poi non voglio fare testo in questo, ascolto voi. Luciano ha parlato? Sì. Allora Alessandro. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. L'ascoltatore mi ha preceduto, praticamente ha sintetizzato ottimamente quella che è la mia opinione. Io vedo mia moglie due fine settimana, parlo di sabato e domenica, li lavora tutti i mesi. Un fine settimana lavora o il sabato e la domenica, rimangono quegli altri. Quindi quindi una settimana sì e una settimana no, mediamente, state insieme? Sì, una cosa del genere. Ma coi figli, quando lavora sua moglie, ci sta lei o viceversa? Certamente ci sto io, ed è proprio quello che mi infastidisce particolarmente, per il fatto che i bambini ormai hanno identificato il fine settimana con il padre. Io sono felicissimo di stare con loro e lo farei di lavoro se potessi farlo, ma non mi piace il fatto che ormai sia diventato in automatico un momento che viviamo noi tre. Mia moglie... Due settimane al mese, basta, non sempre. Diciamo, la metà dei fine settimana che ci sono in un mese mia moglie non c'è. L'altra metà c'è però. Quindi... L'altra metà c'è, ma sta di fatto che le dinamiche che si sviluppano anche con gli amici, anche con i compagni di scuola, nei fine settimana in cui mia moglie non c'è, noi non possiamo partecipare. Le gite, i fuori porta della Pasquetta che è appena trascorsa, noi non possiamo utilizzarli come li utilizzano gli altri, e questo lei lo ha ricordato correttamente. Chi gestisce il supermercato a bilancio gli fa numero. Benissimo, da un lato abbiamo le relazioni personali e familiari, direi, non una qualunque relazione da caffè al bar, dall'altro lato abbiamo il bilancio di supermercato. Io personalmente, se mi manca qualcosa un giorno festivo, faccio a meno e lo compro un giorno non festivo. Al supermercato il fine settimana, non ci vado mai. E invece guardi, è il giorno che ho più tempo per andarci. Dipende, sai, non è soggettivo. Si fa un piccolo sacrificio e si va quando si deve andare. E quando si deve andare, ma se uno sta da un'altra parte è un po' difficile. Non è che è sempre così. Comunque si va. Per me è una grande comodità avere i supermercati aperti la domenica. Trovo un grande segno in civiltà che la domenica sono aperti i negozi. Ha ragione che è una grande comodità, ma siccome si vive anche senza qualche piccola comodità, perché mia moglie si trova la domenica a rispondere a persone che non sanno come programmare il cellulare, non si trova a curare i malati terminali. Sì, però capisce, ecco, allora, ho capito, però ognuno, anche io come le dico, devo andarci la domenica e gli altri giorni faccio qualcos'altro, capito? Questo è il discorso, è una società molto complessa, non ci può essere una regola uguale per tutti, è così, ho capito, sua moglie può farne a meno di fare quel lavoro? No, penso che abbia bisogno di farlo. No, non ne possiamo, fare a meno. E chi vende cellulari può fare a meno di avere un servizio sempre disponibile perché il cellulare si rompe? No, se no non vedrebbe cellulari. La società è fatta proprio anche di questo. Non possiamo più pensare che siamo articolati anche nel nostro tempo libero, in un tempo libero generalizzato per tutti uguale. Bisogna fare delle scelte, penso almeno, poi ognuno veda. È chiaro, è sacrosanto e lecito il suo diritto di avere i figli tutti fine settimana. Le dico, parla con una persona che per 30 anni il sabato si è tenuto i figli perché la moglie lavorava, ma doveva lavorare il sabato lei, perché io lavoravo la mattina presto, era tutto un incastro totale. Ma siamo sopravvissuti e siamo tutti vivi. Alessandro, ha parlato, Angelo. Grazie, buongiorno. Sì. Dunque, mi deve perdonare se magari sono un po' leggermente polemico. La gente al giorno d'oggi non sa cosa pensare, sta prendendo un sacco di scuse perché la moglie di qua, perché il suo di là. Ma sì, ma si vedono il martedì, il mercoledì, alla sera torneranno a casa queste mogli, non è che stanno fuori fino a mezzanotte. Cioè io ho 65 anni, faccio l'agente di commercio, molte volte mi tocca preparare i preventivi perché lunedì li devo dare ai clienti. E poi dopo diciamo la verità, ogni tanto senza la moglie si può anche star bene, programmare la giornata, perché queste persone quando sono a casa sabato o la domenica non è che stanno tutto il giorno con la moglie, magari vanno anche al parco. Mi scusi, non trovo nemmeno scandaloso che un padre due fine settimana al mese stia con i figli lui, non c'è niente di strano. Sì, no, l'abbiamo fatto tutti, ci va lui in gita con gli altri genitori, qual è il problema? Non capisco, o è la rappresentazione geometrica tradizionale, moglie, marito, figli tutti assieme sorridenti o niente, no, ci sono altri, i figli si abitueranno anche a questo. Poi, signor Nicoletti, mi scusi, e poi dopo è abbastanza che uno parla di una cosa che tutti lo seguono, sciopero di qua, io vorrei tanto che queste persone vanno in vacanza, arrivano là, trovano lo sciopero per vedere cosa dicono, poi dopo vediamo. Allora si dice quello che hanno fatto loro prima. Io sono per la massima libertà. Chi pensa che per lui è importantissimo, per il suo equilibrio, avere tutti i fine settimana a casa, deve fare dei lavori per cui sta tutti i fine settimana a casa. Chi pensa che comunque sia il lavoro oggi già una rarità, già un privilegio, già è qualcosa di molto difficile, molto problematico e via dicendo, c'hai un lavoro, ti adatti a quelle sono le esigenze del lavoro, perché la giornata è lunga, uno fra le persone possono parlare in varie ore, in vari momenti, possono incontrarsi in vari momenti, molte volte vedersi poco aumenta la qualità delle volte che si vede, cioè non possiamo più pensare che le famiglie erano come siamo abituate noi sessantenni, che il padre all'ora di pranzo tornava a casa, mangiava, poi magari si metteva al pigiama e faceva il riposino, tutti zitti, tutti buoni, poi riusciva ad andare a fare l'altra metà del lavoro e la mamma stava sempre a casa. I figli stanno sempre, diciamo, in questa sorta di quadro obbligato. La domenica si mangiavano le pastarelle, il pollo arrosto e la mamma faceva la pasta al forno, capito? Venivano i nonni e gli zii, poi si faceva la passeggiatina e il gelato. Basta, questo mondo non c'è più. Se qualcuno vuole che questo mondo possa ancora esistere. È cambiato il mondo. Ecco, perfetto. È cambiato. Sono è veramente d'accordo. Cambiato. Poi dopo ci sono tante coppie che dicono che vogliono stare assieme e poi dopo magari, quando sono a casa stanno lì a litigare. Cioè, le notti uno non lavora. È il mondo strano. Di solito i rapporti fra le coppie si rinsaldano nella notte, quando il mondo tace, c'è la luna che splende, i bambini dormono. C'è anche questo fatto, capito? Che insieme ci si può stare, c'è un sacco di tempo. Fermiamoci un istante, prendiamo tante telefonate. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, ha proprio il taglio che volevo questa trasmissione. In questo momento stiamo cercando di capire i motivi profondi, reali, concreti, i punti di vista che naturalmente sono antitetici. Fra chi dice che ormai è cambiata la società, è cambiato il mondo, non bisogna fare riferimento a strutture della società che appartengono al passato, in società meno complesse, anche meno problematiche, anche con meno esigenze, anche con meno bisogni, altri che dicono il mondo è cambiato e quindi va bene così, inutile pensare che ci debba essere la famigliola che dal venerdì pomeriggio alla domenica sera stanno sempre insieme uniti e fanno le gite fuori porta con gli amici, si fanno altre cose. Marco, buongiorno. Buongiorno, salve. Ascolto. Io volevo intervenire perché ho sentito un po' delle inesattezze, nel senso che non si è detto che nel commercio spesso e volentieri, come è capitato anche a me, ti fanno firmare un contratto dove c'è scritto che tu non potrai mai riposare il sabato e la domenica, per cui sono quattro domeniche su quattro a lavoro, per cui non è un discorso come i turni in fabbrica o alle forze dell'ordine dove tu ti fai una, due domeniche al mese e casomai anche pagato. E quindi si lavora sei giorni su sette? Sei giorni su sette con un giorno di riposo che corrisponde al mio esperienza personale, lunedì o il martedì, dove la moglie semmai lavora, per cui sei un giorno che sei tu solo a casa come uno stupido, e la settimana dopo riparte così. E tu sei tutti i weekend a casa, tutti i weekend a lavoro, finisci semmai anche la sera tardi, perché io lavoravo in un centro commerciale, poi me ne sono andato perché non è e l'obbligo più. A lavorare tutte le domeniche e tutti i sabati. E ho assistito anche a scene di responsabili che venivano a segnarsi la data di scadenza del contratto se ti rifiutavi di fare straordinari non pagati. Per cui sono situazioni per. Cioè, sì, però lei sta parlando di situazioni che penso che vadano oltre quelle che sono, diciamo, le regole sindacali. E queste ci sono. Sì, però la realtà è questa: se le persone vanno a scioperare in piazza, non è perché non vogliono. Ma io mica prendo in giro chi sciopera, non mi sono mai permesso. No, ma io non ce l'ho con lei, ce l'ho più che altro con alcuni aspetti ascoltatori che hanno detto un po' di inesattezze, anche francamente. Sì, ma questo lei sta. Io ho detto, se questa dovesse essere una trasmissione basata sui contratti di lavoro, sui rapporti di lavoro, non l'avrei fatta io, l'avrebbe fatta. Avevo fatta dei colleghi che si occupano di lavoro, di economia. Il mio era un interesse, una curiosità di tipo sociale. Voglio capire se ancora c'è. Ma è chiaro, lei dice. Io alla fine, le dico, sono uscito da questo mondo. Qualche volta mi capita di ritornarci nel centro commerciale di domenica, perché lavoro durante la settimana. Non è che non capisco proprio il meccanismo della domenica, posso anche accettarlo. Però si deve parlare e capire che se la gente va in piazza. Perché ci sono abbastanza. Ma figuriamoci, ma chi ha detto niente? Perché è soggetto a queste condizioni. Ma è logico, ma lavoro. Per cui evidentemente forse se si desse uno stipendio un po' più alto, una rotazione reale, non solo sulla carta, ma che poi dopo non avviene. Sì, ma già ho detto, non voglio fare una trasmissione, non è il mio ambito. Quella cosa è sacrosante, giusta, la capisco, ma pensa che non ho possibilità e sensibilità di capirlo. Però dico, i centri commerciali domenica sono pieni, straboccanti. Evidentemente è qualcosa di nuovo. 20 anni fa non esistevano, si doveva fare tutto durante la settimana, si faceva. Fa parte probabilmente delle perversioni della società del consumismo esasperato. Sì, esatto, io diciamo che a livello sociale. Sì, questo può anche, però voglio capire, siccome la società sta cambiando e non credo che chiuderanno i centri sociali, troveranno sempre delle persone che avranno comunque più bisogno e staranno lì a lavorare comunque sempre di più. Voglio capire la percezione del mondo che cambia dai miei ascoltatori. Sacrosante. No, ma lei ha ragione, perfetta. Ha fatto una puntualizzazione doverosa. Io penso, ne parlavano questa mattina Milan e Giannino, sono temi che questa è una radio a taglio anche soprattutto economico, quindi tratteranno anche questi problemi. Il mio era un interesse tipo diverso, un interesse tipo sociale, non perché siamo complementari in questo. L'aspetto legato ai salari, alle retribuzioni, ai contratti capestro è un aspetto che sicuramente tratteranno benissimo altri colleghi. Oggi mi interessa capire la percezione del mondo che cambia. Il vecchio antico mondo non esiste più, il modello non esiste più, oppure diventa un lusso altissimo, se lo può permettere soltanto chi può avere il lusso di scegliere un lavoro che gli permetta di fare questo. Antonio, buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì. Allora, sono in linea? Sì, ok. Senta, dunque, l'argomento è molto, molto articolato. complicato e ovviamente c'ha tanti aspetti e sfaccettature che vanno, è difficile insomma andare a toccare una per una perché ci vorrebbero 4 giorni di trasmissione. Certo, andiamo al punto. Però andando in sintesi, sperando che ci riesco, allora secondo me intanto c'è un po' di ipocrisia un po' da parte nostra nel pensare ancora che il mondo non è cambiato. Intanto primo c'è la nostra società, non siamo nelle Ande o in Himalaya, è una società consumistica dove lo stimolo all'acquisto è dentro il nostro sangue ormai da decine di anni. Siamo una società che deve consumare per non andare a picco. Questo qui è diventato anche un modo di vivere, quindi è inutile dire che la famiglia non è cambiata o che qui o che là. Intanto abbiamo siamo una società multietnica dove i cinesi e tante altre razze aprono la domenica, giorni festivi compresa Pasqua, e se ne sbattono di tanti cavilli. L'ho citato all'inizio, ci sono delle ore della giornata in cui uno necessariamente, se vuole fare la spesa, andare in un negozio gestito un signore del Bangladesh. Anni, guardi, non mio padre non ha mai lavorato la domenica e neanche mia madre, sono stati sempre in famiglia, quindi ho vissuto in un modo felice con mamma e papà vicino. A 61 anni non è che sono un nostalgico, mi rendo conto che la famiglia intanto è andata abbastanza distrutta, una famiglia su tre sono separati con figli, quando si va a scuola ci sono 3 genitori o forse 4 a parlare con i professori, quindi la famiglia è cambiata. Quindi tutta questa scandalo che sento dire dagli ascoltatori, in realtà è gente che non vuole discostarsi da quello che invece è guardare la realtà in faccia. Come dice Vasco Rossi, la realtà la devi guardare in faccia. Allora, la famiglia è quello che è, lo stimolo all'acquisto è una necessità, perché oggi la frustrazione che c'è con i pochi soldi che si hanno e la vita stressante che si fa ti porta automaticamente, io faccio comunicazione e marketing, quindi so benissimo cosa significa la pubblicità e l'acquisto come stimolo a vivere, perché oggi la famiglia che sta davanti al televisore, tutti parlano con i figli, non esiste più, i ragazzi stanno con i loro cellulari, i genitori con la loro televisione, quindi voglio dire, allora a questo punto ben venga il lavoro domenicale. Il problema invece è un altro: facciamo lavorare chi non lavora gli altri 6 giorni a settimana, no? E paghiamolo giusto, perché è inutile che tu una persona, io vado nei supermercati soprattutto sì, però, il sabato e la domenica. Sì, chiudiamo però, perché sennò non faccio parlare a nessun altro. Qual è il tema? Il tema dice che è giusto, che la società sta cambiando, ci adeguiamo ai cambiamenti della società. Abbiamo capito, quello diciamo. Rita, sentiamo anche Rita, qualche donna che parli, sennò non dico, sembra che non hanno mai voce in capitolo. Prego Rita, l'ascolto. Io preferisco lavorare la domenica e avevo giusto detto che insomma anche se avete un lavoro da voi a Radio 24 la domenica vengo subito. E ho sempre che lavoro fa lei? Che lavoro fa Rita? Io facevo lo stesso Aria, è certo che lavorava la domenica, però penso che nigeriano che vuoi avere sì. La domenica libera per andare a chiesa, e la chiesa nel governo che deve gestire se un marketing deve essere aperto sì o no. In Belgio come in Francia, nel cuore di Parigi dove ci sono milioni di turisti, il governo si è permesso di chiudere, è totalmente assurdo. Io vorrei una città come canta Frank Sinatra, aperto, che non dormi mai, e quindi penso che non dobbiamo tutto, come lei l'ha detto, sistemarsi, che quello che non vuoi lavorare la domenica non lo fa e scegli un lavoro che va bene per lui, ma dire che per la moglie la può vedere il lunedì, e quello che vai a chiesa la domenica, lunedì mattina penso che vuoi del pane, quindi uno ha lavorato tutta la notte la domenica, vuoi il giornale, anche là uno ha lavorato, e quindi loro vogliono tutte le loro comodità. Comunque, Rita, ma non abbiamo loro la loro parte. L'abbiamo capito, dice che c'è bisogno di lavorare, la domenica lavora, anche perché la domenica gira tante persone si muovono, c'è un'infinità di attività che la domenica debbono rimanere aperte, qualcuno deve pur lavorarci. Si dividerà la società, secondo me, infine, chi vuole mantenere una sua struttura tradizionale, ora necessariamente ripiegare verso i lavori che non chiedono questa elasticità. Chi pensa che in realtà è bello vedersi quando capita, quando è il momento, quando ci si può vedere senza necessità di feste comandate, ecco, forse il tema proprio è la festa comandata. Siamo in un momento in cui non possiamo più avere feste comandate, dobbiamo avere feste scelte, feste per elezione. È festa quando io sono libero, quando tu sei libero, quando possiamo mettere insieme le nostre due libertà, è una grande festa. E se no sarà comunque bello aspettare il momento che riusciamo a mettere insieme queste cose. Abbiamo chiuso? Sì, alla prossima.